Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Dopo una lunga assenza che ci ha visti un po' lontani a causa della coincidenza del giorno di martedì sia con la festa di Natale che con la festa della Solennità della Madre di Dio del 1º gennaio. Quindi, se Dio vuole, oggi riprendiamo il nostro ciclo di conversazione dal punto dove l'avevamo lasciato nell'ultima trasmissione che ci ha visto in diretta, che è andata in onda lo scorso 18 dicembre del 2012, dove, se ricordate, almeno gli ascoltatori assidui, abbiamo aperto, diciamo, il capitolo del secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano, parlando fondamentalmente in quella conversazione del nome di Dio e della santità del nome di Dio, ecco, ricordando come in questo, almeno da un punto di vista formale, siamo un pochino superati anche dai nostri fratelli ebrei, che sono tanto riverenti nei confronti della santità del nome di Dio, da evitare addirittura di pronunciarlo quando lo incontrano scritto nella sacra pagina, ricorrendo ad un artificio, insomma, per formulare un nome equivalente, evitando però di pronunciare il nome santo di Dio. L'abbiamo visto che Yahweh, quindi il sacro tetragramma, che esprime nella sua significazione proprio l'essenza trascendente di Dio e quindi la santità di questo nome, che dovrebbe essere pronunciato sempre con estrema riverenza e non per motivazioni inutili, e quindi ben lontano dall'ingiuriarlo. Dico subito che i peccati principali contro il secondo comandamento sono abbastanza noti, e si riducono quelli gravi, diciamo così, al falso giuramento, alla bestemmia, o anche l'ultima tipologia, insomma, di peccato grave contro questa materia, la trasgressione volontaria di un voto che sia chiaramente realmente un voto liberamente assunto nei confronti di nostro Signore. E noi cominceremo ad affrontare e questa è la tematica del secondo comandamento, appunto dalla bestemmia, nei confronti della quale credo che sappiate che l'Italia vanta un triste primato, perché questo brutto vezzo, che per molti è semplicemente un atteggiamento che comincia ad essere molto diffuso fin dall'età dell'adolescenza, per poi incancrenirsi in vizi reiterati, insomma, che possono perdurare anche ad età matura, con gravi conseguenze, con gravi scandali, specialmente per i figli che sentono bestemmiare i genitori dentro casa, insomma, o cose del genere. Quindi è necessario fare attenzione a questo brutto vizio, decodificarlo bene, comprenderne l'intrinseca non soltanto malizia, ma anche l'intrinseca stupidità, e astenersi da commetterlo, soprattutto combattere questo brutto vezzo della bestemmia, ricordando sempre il monito secondo il quale il male dilaga non soltanto perché c'è chi lo commette, ma anche perché in pochi lo combattono e in pochi lo ostacolano e lo avversano, quando invece dovrebbe essere per noi un punto di onore, un punto di forza, ecco, difendere il santo nome di Dio e per quanto possibile combattere questa cattiva abitudine. Una volta chiesero a San Pio da Pietrelcina, il grande santo del Gargano, a cui noi tutti, specialmente questa radio, come saprete, è particolarmente devota, chiesero a lui, dice: Padre, ma è lecito combattere la bestemmia? Dobbiamo reagire quando portiamo una bestemmia oppure no? E lui rispose: cioè, soltanto è lecito, è cosa santa, buona e doverosa. Quindi, potendo, è necessario reagire alla bestemmia quando si manifesta attraverso la forma volgare, insomma, che non è l'unica, come vedremo già da oggi, e cercare di fare il possibile per ammonire il bestemmiatore dall'astenersi da questa brutta e irragionevole, come vedremo subito, condotta. Io ricordo che quando ero giovane rimasi molto colpito, quando ero piccolo, nella cattedrale della città dove abito, una cattedrale di di latino, dove io ho frequentato il catechismo per la prima comunione, non me lo dimenticherò mai questa immagine, c'era fissa sulla porta un'immagine, c'era un crocifisso, insomma, un crocifisso con un'immagine abbastanza dolorosa di nostro Signore, e quindi in stato di evidente sofferenza, e sotto la scritta uomo perché bestemmi e cristiano perché taci. Quindi questo per dire, insomma, che questa brutta abitudine dilaga. Ecco, una volta la bestemmia era un reato, io vi parlo da ex studente di giurisprudenza, a quello che so negli ultimi anni, è una cosa recente, però dovrebbe essere vera l'informazione, perché ricordo di aver appreso questa notizia con sommo dolore e con somma sorpresa, la bestemmia è stata depenalizzata dal codice penale, sempre sotto i pretesti soliti, moderni e sciocchi, che siccome allora lo Stato italiano adesso è diventato uno Stato laico, quindi il cattolicesimo non è più religione di Stato, e quindi per la parità delle religioni, quindi dovresti anche poi mettere in galera anche chi dovesse bestemmiare Allah o chi dovesse bestemmiare Buddha, e quindi hanno preso e hanno depenalizzato la bestemmia, insomma. Mi dicono alcuni giovanotti che giocano a pallone che tuttora, almeno in teoria, se durante una partita di calcio l'arbitro sente qualcuno che bestemmia, dovrebbe cacciarlo fuori, quindi potrebbe ancora espellerlo. Però mi dicono che insieme a questa norma teorica, de facto, questa viene ben poco messa in pratica, nel senso che quando giocano a pallone bestemmiano come turchi, però in ben pochi vengono buttati fuori. Quindi purtroppo questa brutta abitudine continua a dilagare. Ecco, e io l'ho definita, non io, insomma, seguendo una pubblicazione, ecco, di un battagliero sacerdote che si trova nel nord Italia e si chiama Lorenzo Boninsegna, che osando un pochettino il testo di un suo libro, molto agguerrito contro questa cattiva abitudine, l'ho definita grido del demonio e vergogna dell'uomo. Questo perché? Perché i demoni sono dei grandissimi bestemmiatori, numero uno. E non soltanto bestemmiatori perché dicono le bestemmie da scaricatore di porto, cosa che sono molto bravi a fare, ma anche perché sono, come dire, gli autori delle più grandi bestemmie che si possano dire, che sono ben altre, e che sono tra le più pericolose, perché sono le bestemmie proprio in senso vero e proprio, in senso proprio tecnico. La bestemmia peggiore, come vedremo forse già oggi, non è ingiuriare direttamente in maniera volgare il nome di Dio, ma è quella un pochino più raffinata, che forse si sembra attribuire a Dio delle cose brutte. Allora, vorrei un attimo introdurci in questo tema. Allora, uno dei santi che è stato più chiaramente, diciamo così, nemico della bestemmia, ed era uno dei peccati contro cui era severissimo, nonostante la sua proverbiale bontà, è stato il santo curato d'Ars, che tutti quanti conoscete, spero, che ha scritto anche dei testi molto belli e molto significativi e ha pronunciato delle omelie di fuoco contro le bestemmie. Ecco, chiaramente trattando questo argomento, anche per la mia devozione particolare verso questo grandissimo santo, che tra l'altro è patrono dei parroci, e come penso che sappiate, io indegnamente sono parroco, farò ampiamente riferimento alle sue esternazioni abbastanza forti contro la bestemmia, che per chi volesse andare a cercare sul web è disponibile, ma si trova anche in un testo di San Giovanni Maria Venier, edito da Città Nuova, Importunati il Buon Dio. È l'omelia pronunciata nella quinta domenica dopo Pentecoste, secondo il calendario antico che chi di voi frequenta la messa tradizionale conosce. Allora, la bestemmia in senso stretto, in prima battuta, è l'ingiuria contro il nome di Dio, cioè è la classica espressione blasfema, che io la chiamo da scaricatore di porto, quindi è l'epitetare in maniera volgare Dio, la Madonna o i Santi. Il santo curato d'Ars, parlando di questa cosa cosa, a volte commessa, vi ripeto, con estrema leggerezza, e come vezzo e come moda. Io ricordo quando ero giovane, quando ero bambino, diciamo così, però la situazione oggi è cambiata perché io parlo con i bambini e purtroppo è diventata assai peggiore. Mi ricordo che fino alla quinta elementare io ho mai detto una parolaccia. O quasi mai, proprio, era una cosa assolutamente inusuale e più che altro mai sentito una bestemmia. Non circolava, arrivato in prima media, successe la fine del mondo, insomma, che cominciavano i cosiddetti ragazzacci a riempirsi la bocca di queste espressioni come gesto, come dire, come rivendicazione di un essere grandi, quindi come un farsi grandi. La bestemmia era come un po' quando si cominciava a fumare. Quindi io bestemmio perché sono già grande e indipendente, quindi ho il coraggio di fare questa cosa. Ecco, e io fumo lo stesso per darmi un atteggiamento, per sentirmi grande, per fare questo, per fare quell'altro. Il problema è che, cioè, tra le due cose, ovviamente è molto meno grave da un punto di vista oggettivo fumare, insomma, perché la bestemmia è un peccato in se stesso molto molto grave. Il fumo, poi lo tratteremo più avanti, diventa un peccato grave soltanto a certe condizioni. Comunque, quello che stavo dicendo, nonostante che si assuma come atteggiamento, quindi non con l'intenzione o con la volontà, quindi di oltraggiare o di offendere il nome di Dio, ciò non toglie, scrive il Santo Curato d'Ars, che è un peccato così orribile e così detestabile che i cristiani non dovrebbero neanche avere il coraggio di commetterlo. Perché se noi ci pensiamo, bestemmiare non vuol dire altro che vomitare fango e veleno contro chi? Contro Dio, ma Dio è anzitutto e prima di ogni altra cosa bellezza infinita ed è anche, oltre che questo, bontà infinita. Quindi vomitare immondizio, ingiuriare in maniera cafonesca e villana colui che è la bellezza stessa, è colui che è la bontà stessa e la causa solo del bene, perché Dio fa soltanto cose buone e Dio compie soltanto opere meravigliose, per cui non è in nessun modo causa del male né fisico né morale che esiste, non è Dio la causa, poi lo vedremo. Quindi in se stesso rivolgere un'ingiuria a un essere tanto grande è operazione assolutamente irrazionale, assurda. Al tempo stesso, e questo si può comprendere la grandezza della pazienza, della bontà e della misericordia di Dio, cioè ingiuriare colui che è, abbiamo visto la volta scorsa, quindi colui che è onnipotente, colui che tutto può e che se volesse potrebbe istantaneamente fulminare il bestemmiatore e precipitarlo nell'inferno, Dio potrebbe fulminarci a distante, cioè se fosse diverso da ciò che è, come dire, se fosse come pensavano gli dei pagani, simile all'uomo, quindi un essere passionale, appena se ne sente una bestemmia, la reazione che potrebbe porre in essere sarebbe di fulminare istantaneamente il bestemmiatore e precipitarlo nell'inferno. Dio non lo fa non perché è debole, perché non può, ma perché non vuole. E soltanto per la sua infinita misericordia, e soltanto perché si rende conto che l'uomo non sa quello che fa, non sa quello che dice, e spera, diciamo così, chiaramente secondo il nostro modo di pensare, in Dio non ci sono speranze, che già conosce il futuro, comunque per comprenderci, spera di ridurre un giorno l'uomo così stupido alla ragionevolezza e di ottenere il suo pentimento in modo tale che possa essere preservato dalla dannazione. Comunque, in questo senso, oltre che atto estremamente, come dire, orribile, è anche atto estremamente superbo e irriverente. Cioè, è una sfida stupida lanciata nei confronti di colui che, se volesse, potrebbe tranquillamente, immediatamente reagire in maniera perentoria e definitiva dinanzi all'atto del bestemmiatore. Poi c'è un'altra cosa, che è l'atto che esprime l'estrema stupidità dell'uomo. Cioè la bestemmia è proprio delle persone che sono stupide. Subito in questo senso, numero uno, perché si ingiuria l'unico che è sempre e comunque amico dell'uomo, anzi, l'unico amico che è sempre fedele e che mai sbaglia. Noi dobbiamo sapere che per quanto possiamo aver avuto il dono e la grazia, e chi di voi l'ha avuto ringrazi sempre il Signore di avere qualche santo amico e qualche persona fidata e fedele, cosa che la scrittura dice che è davvero un balsamo, un grande dono di Dio, le creature umane sono sempre fallibili, sono comunque sempre imperfette e purtroppo, magari in buona fede, possono in un certo momento tradire oppure voltarci le spalle o comunque non corrispondere alle nostre aspettative. Dio non è così. Dio è sempre il nostro amico, anche quando noi siamo suoi nemici, quindi quale stupidità è mai quella di offendere l'unica persona che è sempre dalla tua parte, no? Quindi io ricordo che qualcuno, quando sentiva bestemmiare la Madonna, reagiva dicendo: scusa un attimo, posso dirti una cosa? Dico, la Madonna è la mia madre del cielo, tu saresti contento se io cominciassi a dire mannaggia a tua madre? Certamente no, quindi anche se tu non ci credi, abbi questa delicatezza di farlo. Oppure, se senti bestemmiare Dio, saresti contento se io dicessi mannaggia a tuo padre? Assurda una cosa di questo genere, no? Ecco, quindi, oltre che atto estremamente stupido, e oltre che superbo, e oltre che assurdo, come abbiamo visto, perché non si può vomitare fango contro colui che è bellezza infinita e causa solo del bene, tra l'altro è il distintivo degli abitanti di Cafonia. Cafonia è una città come Creta in continua espansione, nel senso che sapete che la città più popolosa del mondo pare che sia Città del Messico, dove sono stata l'estate scorsa con circa 23-24 milioni di persone. Ah, ma Cafonia e Creta la superano, cioè ci sono, perché sono delle città internazionali. Quindi non sono città che hanno una certa cartina geografica, ma hanno abitanti in tutte le città del mondo. Quindi se uno fa la sommatoria degli abitanti di Cafonia, cioè i cafoni, degli abitanti di Creta, cioè i cretini, guardate che riempie quasi l'80% del pianeta Terra, quindi altro che Città del Messico. Quindi sono molto più popolose. Ecco, e a Cafonia, uno sulla carta d'identità dei cittadini di Cafonia, hai visto che c'è scritto tante le cose, insomma, ecco, tra i distintivi, diciamo così, i segni particolari, c'è la bestemmia, che oltre ad essere tutto il resto, esprime estrema maleducazione, estrema grossolanità, estrema volgarità, ed è proprio il distintivo di cafoni, grezzi e ignoranti. E non dobbiamo avere affatto paura, insomma, di dirle queste cose. Quindi, in caso estremo, quando uno sente un bestemmiatore, si può anche dire cerca di fare la persona educata, insomma, e cerca di farla finita di essere così cafone e così grezzo, che degrada, tra l'altro, e abbrutisce l'uomo, rendendo simile ai demoni. La bestemmia rende simile ai demoni. Ci sono alcuni peccati che sono particolarmente gravi, perché abbrutiscono e degradano l'uomo, mentre gli atti impuri, come vedremo a suo tempo, rendono l'uomo un animale, anzi un animale un po' peggio degli animali bruti. La bestemmia rende l'uomo simile ai demoni, quindi pensate un po' che bella mostra di mostri che andiamo a assistere in giro, quante bestemmie si dicono e quanti atti impuri si fanno. Quindi, se potessimo vedere molti esseri umani con gli occhiali della fede, vedremmo un bel panorama di mostri. Perché i demoni sono esseri mostruosi, gli animali bruti e abbrutiti, insomma, non sono proprio il top, insomma, del fascino, della bellezza. Quindi pensiamo un po' in mezzo a che mondo stiamo vivendo. Quindi questo brutto vezzo può senz'altro definirsi un gesto inescusabile e inqualificabile sotto ogni aspetto e sotto ogni modo. Vi racconto un episodio personale, che era il mio bisnonno, il nonno di mia madre, che era una persona sicuramente un po' abitante di Creta, perché diceva di essere ateo. Sacra Scrittura l'abbiamo già visto nell'antico, nel primo comandamento, dice che lo stolto, quindi il cretino oppure lo stupido, dice Dio non esiste, insomma, perché per essere atei, quindi per essere non credenti, bisogna essere sommamente stupidi, insomma, no? Vabbè, comunque, poveraccio il mio bisnonno, adesso in pace l'anima sua, non diciamogli queste cose. Comunque lui era ateo. Mia madre raccontava che pur essendo ateo, non soltanto non l'aveva mai sentito dire una bestemmia, ma che, e su questo purtroppo superava molti cattivi cattolici, quando sentiva bestemmiare riprendeva il bestemmiatore e riprendeva a volte anche con una certa energia, dicendo queste cose. Dico: scusa un attimo, tu perché bestemmi? Guarda, io sono ateo, d'accordo, quindi non credendo non bestemmio, perché chi bestemmia se non ci crede nel Padre Eterno? Bestemmierei il nulla, quindi sarebbe un'offesa alla mia intelligenza. Supposto che l'ateo sia intelligente, però capite l'esempio che stava facendo, no? Quindi io non bestemmio, anche perché è da un lato un'offesa alla mia intelligenza e dall'altro mi presento come un gran cafone, quindi come un distintivo dei cafoni. Quindi se uno non crede è inutile che bestemmia. Se uno crede, sei matto che bestemmi? Cioè se tu credi tu bestemmi la causa del bene, la causa del bello, e bestemmi pure uno che, insomma, a quello che dici tu, se esiste, è somma giustizia, oltre che infinita misericordia, e che quindi per esortarti potrebbe presentarti la lista e il conto di tutte le altre bestemmie che fai, ma comunque compi un atto ragionevole, perché i cristiani dicono che Dio è buono, dicono che Dio è santo, dicono che Dio è bello, quindi perché dovresti bestemmiare? Quindi capite come facendo questo ragionamento si smaschera proprio l'assoluta follia di questa. Di questo assurdo modo di fare, ripeto, così tanto diffuso dalle nostre parti, perché l'Italia c'ha il primato europeo e forse mondiale, ecco, di grandi bestemmiatori, ecco, e non soltanto alcune regioni d'Italia, perché pare che questa cosa sia abbastanza diffusa, anche se ha delle zone in cui è particolarmente recrudescente. Allora, quindi che cosa si deve fare? I santi insegnavano che piuttosto, anzitutto, che bestemmiare il Padre Eterno, quindi compiendo un gesto assurdo, quando succede qualche disgrazia o qualcosa che non va, se proprio uno non è capace di starsi zitto, quindi che non è santo, che fa degli atti di pazienza e offre tutte le sofferenze al Signore e le sopporta, si può bestemmiare il diavolo, ma si può bestemmiare il diavolo senza fare peccati. Quindi soltanto che diceva Sant'Alfonso, bisogna bestemmiare il diavolo senza arrabbiarsi. Quindi, perché se uno bestemmia il diavolo arrabbiandosi, comunque fa peccato veniale di ira, diceva così. Quindi con calma, quando succede un guaio, senza arrabbiarsi bisogna dire: ma mannaggia al demonio, quindi con la voce tranquilla, ma mannaggia al demonio, maledetto il demonio, ecco. Possa schiattare il demonio, però bisogna dirlo con la voce tranquilla, quindi senza assecondare i conati di ira e senza perdere il lume della ragione. Oppure si possono anche attribuire al diavolo i caratteri appartenenti alla specie suina, come a volte si fa ingiuriando il nome di Dio, oppure alla specie canina. D'accordo? Perché purtroppo si fa così. Tanto lui è ben più brutto e schifoso dei maiali. Ed è ben più rabbioso dei cani malati di rabbia, quindi non faremo altro che dire la verità, quindi non si fa assolutamente niente di male. E stessa cosa vale quando ci viene da mandare qualche accidente, così facciamo oggi un po' di scuola di comportamenti alternativi. Quando poi qualcuno vi fa qualcosa di male, ci viene da dire pozzi, ecco, che non si può dire. Oppure te prenda quel che non si può dire. Allora, perché i santi sono stati anche i santi insegnamenti. C'è Sant'Alfonso che ha imparato a bestemmiare il demonio. E poi c'è San Filippo Neri che ha insegnato come si mandano al prossimo gli accidenti santi. Quindi se ti dovesse scappare via qualcuno, ma va a morire ammazzato, che non si deve dire, basta che ti correggi e alla fine ci aggiungi va a morire ammazzato per la fede. Ecco, quindi praticamente al prossimo si può augurare il martirio, perché se tu gli dici va a morire ammazzato per la fede, sarebbe come se tu gli augurassi di forza morì martire. E sappiamo che il martirio è il più grande onore che Dio potesse farci, insomma, se moriamo martiri, sarebbe la grazia più grande che Dio potesse fare, quindi auguri al prossimo la grazia più grande che possa ricevere da Dio. Oppure se potete possino coricatte, così dicono a Roma, però di grazie e benedizioni. Quindi ti possa che tu incontri tanti preti che ti impongono le mani e ti danno benedizioni, benedizioni, benedizioni. Ecco, che il nostro Signore, a causa anche delle preghiere che io dirò per te, nonostante che mi stai un po' non troppo simpatico, ti darà tante grazie, tante grazie, tante grazie e tante grazie. Ecco, però questo diciamo che è un mezzo di difesa sui peccati contro il quinto comandamento, ecco, perché ingiuriare il prossimo e mandare gli accidenti è un peccato contro il quinto comandamento, che non bisogna ovviamente fare. Però poi riprenderemo questo argomento quando parleremo del quinto comandamento. Ora dobbiamo tornare alla bestemmia, dopo aver fatto, come di consueto, la nostra piccola pausa, ragazzi, di 20 secondi per recitare insieme un'Ave Maria nell'ora della Madonna apparsa a Santa Caterina Labourè. Quindi il ricordo dell'apparizione a questa santa francese e della medaglia miracolosa che tutti noi francescani dell'Immacolata portiamo orgogliosamente, orgogliosamente in senso santo sul petto e in cui e nella quale confidiamo e ci gloriamo. Quindi la diciamo un attimo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ragazzi, tornando al punto che stiamo trattando, allora, abbiamo visto come ingiuriare il nome di Dio sia atto cafonesco, sia atto stupido, sia atto volgare, sia atto irrazionale, eccetera, e sia atto superbo e villano. Allora, potremmo tranquillamente dire, vabbè, stop, che altro vogliamo dire sulla bestemmia? E invece non è proprio così. Perché esiste un'altra vastissima quantità di bestemmie, più raffinate di questo, che tra l'altro sono tanto più gravi in quanto sono pronunciate, formulate, senza pensare che sono più bestemmie di quelle dette ingiuriando il nome di Dio. Perché, come abbiamo accennato, l'ingiuria del nome di Dio può avere come circostanza attenuante, non certo scusante, una crassa ignoranza, quindi, perché purtroppo quando c'è una cittadinanza di cafonia prolungata nel tempo per generazioni si possono assumere anche dei comportamenti molto cafoneschi senza rendersi conto insomma di questo, oppure il cattivo esempio avuto. Pensate per esempio, attenzione se c'è qualche genitore che mi ascolta, perché il fatto che un bambino, un figlio, senta una bestemmia da parte di un genitore è cosa gravissima. Quindi se proprio non potete far meno di bestemmiare, scusatemi il linguaggio un po' esplicito, cercate di bestemmiare quando state da soli. Non fare mai questo davanti al figlio, perché sapete, un sacerdote quando ascolta le confessioni, se Dio non voglia ti capita un fanciullo, un ragazzo che dice che ha bestemmiato, la prima cosa che deve chiedere è dove l'hai sentita? Pensate che cosa gli devo dire io se quello mi dice l'ho sentita da mio padre, o peggio. A volte succede anche questo, l'ho sentita da mia madre, che facciamo? Quindi, e se l'avete fatto, attenzione ai grandi che mi stanno ascoltando, bisogna confessarlo con questa circostanza, perché i peccati mortali, apriamo una piccola parte, si confessano non soltanto per specie e per numero, ma anche per circostanza. Questa è un'aggravante gravissima, sarebbe come se dico una parolaccia io. Se io dico una parolaccia in pubblico, io che sono un prete, è molto più grave che detta da un laico. E non è che mi posso andare a confessare, entro in una chiesa dove non mi conoscono, c'è la grata, nessuno sa che sono un prete, dico, ho detto una parolaccia. Perché io devo dire al confessore, io sono un prete, e ho detto una parolaccia in pubblico davanti agli altri. Quindi ho dato cattivo esempio, ho scandalizzato le persone. Spero di non farla mai una cosa di questo genere, sto facendo un esempio per farvi capire. Quindi chi ha detto una bestemmia davanti al figlio lo deve andarsi a confessare. E devi sapere che ho fatto una cosa gravissima, gravissima, e deve riparare questa cosa qui, se il figlio se lo ricorda. Deve andare dal figlio e deve dire: guarda, purtroppo a causa dei peccati, fatto che purtroppo mamma e papà è un grande peccatore, guarda, mi è scappata quella cosa, non sarebbe mai dovuta succedere, sappi che non si deve dire, non lo sentirai mai più, io mi sono confessato. È uno di quelle rare circostanze in cui un genitore deve umiliarsi davanti al figlio per riparare il gesto gravissimo che ha fatto, perché altrimenti... E questo comporterà una emulazione da parte dei figli, la cui colpa sta nel genitore. Ci sono alcune cose che non si devono fare, e dobbiamo avere almeno quel tanto di controllo per evitare di farle. Quindi, attenzione ancora a queste cose. Dicevo però che c'è un'altra vastissima mole di comportamenti che per certi aspetti sono più gravi, perché la bestemmia, ripeto, può avere come circostanza attenuante una certa cafonaggine, i cattivi esempi ricevuti, oppure il fatto che scappa, non dovrebbe, perché ad alcune persone non scappa mai, però purtroppo l'uomo è debole, magari perde il lume della ragione, sta in un momento di ira furiosa e gli scappa, come incidente. Certamente si deve andare a confessare, questa non è una circostanza scusante, ecco, però diciamo che il comportamento dovuto a mancanza di self-control, quindi a un momento di estrema debolezza. Ecco. Però altre fattispecie sono ben più gravi, perché non sono dette così, che mi sono scappate, ma sono dette con piena avvertenza, deliberato consenso e anche magari in forme raffinate, ma sono delle gravissime ingiurie rivolte contro nostro Signore, gravissime. E sono delle bestemmie proprio in senso stretto, cioè sono delle bestemmie formali, non sono delle bestemmie metaforiche. Ma già Sant'Agostino scriveva che bestemmiare non è soltanto ingiuriare il nome di Dio, ma è anche attribuire a Dio qualcosa che o non ha, oppure non gli conviene, oppure, al contrario, gli si toglie qualcosa che ha o gli conviene. O infine si attribuisce ad una creatura ciò che è dovuto e proprio solo del creatore. Io quando penso a questa fattispecie mi viene immediatamente in mente uno striscione che vidi qualche tempo fa durante un filmato di un concerto di Vasco Rossi. C'era scritto: Vasco, ti adoro, tu sei il mio Dio. Cos'è questa secondo voi, ragazzi e ragazze carissime? Questa è una gravissima bestemmia, perché si sta attribuendo ad una creatura ciò che è dovuto e proprio solo del creatore, perché l'adorazione è dovuta a Dio solo e riconoscere Dio come Dio è dovuto a Dio solo, primo comandamento, io sono il Signore Dio tuo, non Vasco Rossi. Quindi con questo soltanto, con questo striscione sono fatti due peccati gravi, contro il primo e contro il secondo comandamento. Comunque, commentando il pensiero di Sant'Agostino, nell'omelia che vi ho già citata, il santo curato d'ars, come dire, estrapola, individua, enumera cinque specie molto comuni di bestemmia raffinata. Io ve le leggo prima e poi eventualmente le commentiamo. Anzi, magari le leggo una alla volta. E le commento una volta che forse è meglio. La prima, dire che il buon Dio non è giusto nel fare alcuni tanto ricchi e colmi di bene, mentre altri sono miseri e poveri, che a stento hanno pane da mangiare. Allora, ragazzi, se tu hai mai detto o pensato una cosa di questo genere, ma perché Berlusconi c'ha tutti questi soldi, che Berlusconi, lo sapete, è diventato nel nostro mondo l'immagine del diavolo incarnato, santo o peccatore che sia, e invece in India un sacco di ragazzini muoiono di fame? Perché è un'ingiustizia questa, giusto? Cosa pensiamo, ragazzi cari? Allora, secondo esempio. Dio è buono? Ma sarà vero che Dio è così buono? E come mai che ha permesso che quel poveraccio avesse quella brutta malattia, quel giovanotto avesse quel brutto incidente, è morto così prematura. Come mai? Vedete le gare, cioè, quante volte si è sentito, quante volte io da prete ho sentito dire sciocchezze di questo genere, cioè succede una disgrazia, succede un incidente, la prima cosa che uno fa se la prende col padre eterno. Dov'era Dio? Perché Dio che è così buono non ha impedito questa cosa? Per quanto questa affermazione possa essere umanamente comprensibile, ciò non toglie che sia gravemente blasfema. Terzo punto. Anche questo l'ho sentito dire tante volte. Pensare che il buon Dio non si cura di quello che accade sulla terra, quindi non vede le cose che accadono, oppure non vede i nostri pensieri. A me è capitato di sentir dire, purtroppo anche da chi non dovrebbe dirle alcune cose, dice: ma ti pare che il Padre Eterno sta a pensare a noi? C'ha ben altro a cui pensare. Quindi questo vuol dire, perché vuol dire bestemmiare? Perché vuol dire negare un attributo fondamentale di Dio, che è la sua bontà che si manifesta nella provvidenza che gli esercita nei confronti di tutte le creature che sono sulla terra. Questa è la terza fattispecie. La quarta fattispecie, oh, questa è un'altra molto diffusa, è il peccato del figlio maggiore della parabola del figlio del prodigo. Cioè, perché Dio usa tutta questa misericordia con questo soggetto, con tutto quello che ha combinato? Ci avete mai pensato? Questa, secondo il curato d'Ars, è una bestemmia. Cioè, c'è una persona che ne ha fatte quante Carlo in Francia, ha proprio quante Carlo in Francia, si pente, trova misericordia da parte di Dio, e c'è qualcuno che si mette a giudicarlo per opera di Dio e dice: ah, questo farabutto e questo delinquente, mo gli facciamo anche un monumento? Se ci pensate bene, ragazzi, se vi ricordate il Vangelo, esattamente il comportamento del figlio maggiore della parabola del figlio del prodigo. E quando torna il figlio minore, che aveva dilapidato il patrimonio in vita dissoluta, il padre, tutto contento perché il figlio era tornato pentito, lo abbraccia, gli fa una bella festa, lo reintegra nella sua condizione di figlio, arriva il figlio maggiore e dice: ah, guarda un po' che cosa è successo qui. Dice: adesso gli facciamo pure il premio, gli facciamo pure la festa. Hai ammazzato pure il vitello grasso, gli hai rimesso l'anello al dito, e vogliamo fare qualche altra cosa? Vogliamo fargli un monumento? Vogliamo chiamare qualche scultore? Chi lo sa, chi c'era a quei tempi non c'era Michelangelo. Dice: noi chiamiamo Michelangelo, gli facciamo una bella statua a questo tuo bel capolavoro, dopo tutto quello che ha combinato. Il padre riprende quell'altro figlio, no? Dice, lo riprende con misericordia. Ma questa è una bestemmia. Perché è una bestemmia? Perché si tratta di togliere a Dio qualcosa che gli ha o gli conviene, cioè la misericordia. Oppure, ecco un'altra cosa, capita una disgrazia e arrabbiarsi con il Padre Eterno dicendo, per esempio, tra tanta gente che c'era sul pianeta Terra, sta disgrazia doveva capitare proprio a me? Oppure, ah, hai visto quanto è buono il Padre Eterno? Me ne ha fatta un'altra. La mia vita non è altro che costellata di croci. Guardate, questa cosa è una cosa molto diffusa. Se uno si vede un film che si può quasi vedere, insomma, che a mio ricordo non ci sono troppe volgarità o troppe scene di nude, di Nudo, che era di un comico italiano, tra l'altro scomparso prematuramente già da diversi anni, che era Massimo Troisi, e ricomincio da tre. A un certo punto c'è una espressione in questo senso purtroppo blasfema, perché praticamente Troisi, che in quel film interpreta il classico ragazzo, insomma, un po' così, insomma, senza molte idee, abbastanza perso, che vive una vita un po' così tranquilla, ma alla giornata. A un certo punto incontra una persona che aveva sofferenze di vario tipo, e questa, diciamo, in maniera un pochino volutamente grossolana, gli dice: ma dice, tu non ti devi stupire di queste cose, perché Dio alle persone che particolarmente ama gli manda le croci come regali, e lui gli risponde: allora digli che a me non me li mandasse sti regali, che non li voglio. Capite che è una cosa che fa ridere sotto certi aspetti, per il contesto in cui è collocata, non appare fatta insomma con malizia, però la frase di per se stessa è blasfema, perché consiste appunto nel ironizzare sul fatto che, come realmente insegnano i santi, questa è altissima spiritualità, quando una persona è particolarmente gradita al Signore per delle motivazioni soprannaturali, che adesso in questo ciclo di catechesi non è il caso di approfondire, comunque lo sappiamo che il Signore lo onora, ecco, di assomigliare un pochino di più al suo figlio, donandogli la partecipazione intensa a qualche croce. Ma non bisogna questo reagire dicendomi infelice, il buon Dio non poteva farmene di più, oppure ignora che sono al mondo, oppure se dovesse sapere che sono al mondo lo è soltanto per farmi soffrire, sarebbe meglio che si dimenticasse di me se deve trattarmi in questo modo. Quindi capite, queste sono soltanto alcune fattispecie individuate dal santo curato d'Ars. Comunque in linea generale si può dire che ogni volta che si parla male di Dio, c'era per esempio una questione, una canzone blasfema. Io ogni tanto faccio riferimento a queste cose perché queste sono catechesi giovanili, ragazzi, no? Dobbiamo stare anche attenti ad alcune cose, no? C'è una canzone blasfema, voglio citare sempre quello di Vasco Rossi. Vasco Rossi nell'LP che gli diede il successo, che lo consacrò alla pubblica opinione dell'84, avevo l'età di alcuni dei miei possibili ascoltatori, perché avevo 13 anni, 14 anni all'epoca, e nell'LP dove c'era Vita Spericolata, Bollicine, scrisse una canzone tremenda che si chiama Portatemi Dio. E praticamente durante questa canzone dice: metterci Dio sul banco degli imputati, giudicare anche lui, io gli voglio parlare e mi deve spiegare che cosa è stata la mia vita, che ho vissuto e che io non ho capito. Quindi una vita brutta, di chi è la colpa? Del Padre Eterno, che mi ha dato una vita che io non ho vissuto e che non ho capito, eccetera, eccetera. Quindi bisogna giudicare lui, bisogna giudicare, altro che. E lui deve rispondere, perché lo dobbiamo mettere sul banco degli imputati, bisogna vedere cosa è capace di dirci. Capite che una cosa di questo genere è sommamente blasfema, no? Quindi anche se un giovanotto si ascolta quella canzone perché la musica è bella e magari ripete a pappagallo quelle parole senza intenzione di farle proprie, il che non toglie che da un punto di vista oggettivo quella canzone è sommamente blasfema. Vi faccio qualche esempio. La gente si muore di fame, quindi Dio non esiste. Blasfemia. Blasfemia tra l'altro falsa, ragazzi, no? Perché io l'ho detto tante volte durante tanti interventi, anche pubblici, bisogna sapere bene le cose, no? Guarda, che i bambini muoiono di fame, è verissimo. Perché se voi mentre mi state ascoltando, guardate l'orologio e contate il tempo di 3 secondi, oppure contate fino a 3, dovete sapere che il tempo di contare fino a 3 ed è morto un bambino. Quindi figuriamoci, noi facciamo un'ora di catechesi. Fate un po' di conti durante questa ora di catechesi quanti bambini sono morti. Tanti. Allora, Dio è cattivo perché farebbe morire questi bambini senza muovere una paglia, giusto secondo noi? Solo che c'è un piccolo problema. Vi invito ad andare a leggere un pochino di cose sul sito della mia parrocchia. Allora, numero uno, il problema principale è che qualcuno si è divertito a fare una stima del quantitativo di denaro che sarebbe necessario in un anno per sopperire ai bisogni primari di tutti i milioni di bambini che muoiono di fame. Vi era una cifra X, adesso io non ricordo l'ammontare di questa cifra. Però questo caro signor X che ha fatto questa stima si è andato a divertire andando a cercare, cosa che è possibile farlo anche sul web, i numeri dei soldi che i 7 paesi più industrializzati del mondo, il cosiddetto G7, spendono ogni anno, attenzione, per nuovi investimenti militari. Attenzione a quello che dico. Quindi, oltre agli eserciti che già si hanno e alle armi che già si hanno, quindi, per esempio, per il 2013, non so, l'Italia investirà, io invento una cifra, 100 milioni di euro per, come dire, ammodernare o equipaggiare meglio o comprare qualche arma nuova a marina, esercito e aviazione, quindi non, cioè, non cose che non si avevano, ma cose in più, quindi nuovi investimenti. Allora, voi dovete pensare che se basterebbe che per un anno i membri del G7, che hanno già armamenti e armi più che sufficienti per fare la devastazione totale del mondo, rinunciassero a comprare nuove armi e devolvessero quei soldi in beneficenza, nessun bambino morrebbe di fame. Sapevate questa cifra? Quindi, di chi è la colpa che muoiono di fame i bambini? La colpa di chi muoiono di fame i bambini, come tutte le cose, è il cattivo uso che gli uomini fanno delle risorse umane e dei soldi. Allora noi dobbiamo capire che Dio certamente che agisce, ricordate l'esempio di queste cose, ma Dio agisce con il concorso delle cause seconde. Ma vogliamo dire che se una donna fa un aborto l'ha ammazzato il Padre Eterno, il bambino, o l'ha ammazzato quella donna? Vogliamo dire che se una famiglia si chiude alla vita, quindi cominciano a usare pillole anticoncezionali e preservativi è tutto spiano, quindi i figli non nasceranno mai, la colpa è del Padre Eterno che non li ha creati lo stesso? Voi pensate che il Padre Eterno non potrebbe creare lo stesso una vita anche se uno prende la pillola? Certamente sì. Non potrebbe far una croce per una vita anche se, però ovviamente dovrebbe andare a fare delle violenze continue ai gesti liberi e volontari dei suoi figli. Allora, il Padre Eterno ci dà i mezzi e le condizioni che dipendono da lui per metterci in condizione di fare ciò che dipende da noi. Capito? Quindi certamente che se tipo i ragazzini muoiono di fame e il Padre Eterno li accoglierà nella sua misericordia e li compenserà della vita di stenti e di povertà che hanno fatto. Ma la colpa non è mica del Padre Eterno. La colpa è nostra. Sul sito della parrocchia www.parrocchiasanmichele.eu, vi prego, andatelo a leggere, andatelo. C'è una sezione dedicata agli articoli interessanti. In uno di quelli è riportato un articolo, tra l'altro uscito su Avvenire, un annetto e mezzo fa, che si chiama L'oltraggio del cibo sprecato. Si chiama L'oltraggio del cibo sprecato. Andate a vedere i numeri spaventosi. Ma sapete che significa spaventosi? Del cibo che viene buttato via, gettato, sprecato in Italia. Io non me li ricordo perché l'ho letto tanto tempo fa, poi l'ho messo su, ma ogni tanto mi vado a rivedere, sono delle cose agghiaccianti, allucinanti. Allora, prima di dire che il Padre Eterno è cattivo perché fa morire di fame i bambini, caro fratellino e sorellina amatissima, che magari mi stai ascoltando oppure che è vostro amico, ditegliele queste cose. Allora, tu potrai alzare qualcosa, tu puoi dire che nella tua vita non hai mai sprecato niente, non hai mai buttato niente, che nel piatto finisci sempre tutto fino all'ultima mollica. Puoi dire che se ti avanzano 10 euro prima di pensare, per carità, è lecito farlo, a tante cose inutili e superflue, magari non pensi che sarebbe forse il caso, se il Signore ti ha dato 10 euro di più, di pensare a chi si muore di fame? L'hai fatto mai tu in vita tua? Punto interrogativo. Allora è così, è per tutte le cose. E quando noi ci troveremo davanti al Padre Eterno, state tranquilli che il Padre Eterno non si fa mettere da noi sul banco degli imputati, ci mette a noi sul banco degli imputati, e nessuno potrà puntare il dito contro il Padre Eterno e dirgli perché hai fatto questo e perché non hai fatto quest'altro. Ecco, io quelle quattro cose che vi ho detto sono delle piccole suggestioni, no? Che forse spero che a qualcuno lo facciano pensare. Ma così vale in tutte le cose. Per questo che le opere di Dio non possiamo, non dobbiamo giudicarle mai. Né meno che mai dobbiamo permetterci di di ingiuriare o di criticare o di sottoporre a osservazione qualcosa, meno che mai attribuendo la responsabilità alla colpa al Padre Eterno. Ripeto, queste sono bestemmie più gravi dell'ingiuria rivolta a Dio. Quindi, allora, per concludere, dire che per esempio il buon Dio non è giusto nel fare alcuni tanto ricchi e colmi di bene mentre altri sono tanto poveri, fondamentalmente significa esprimere un vero giudizio sull'operato di Dio e dimentica un dato di fatto fondamentale, che la causa della povertà, come risulta dagli esempi che vi ho fatto, non è il Padre Eterno, è l'uomo. Attenzione, ho ritrovato adesso l'articolo di Avvenire. Allora, vi do un pochino di cifre. Questo Avvenire è del 20 ottobre del 2010. Allora, così vi do un pochino di numeri, anche se vi chiedo umilmente di prendervi la briga di andarlo a leggere. Quindi dovete andare sul sito della parrocchia, nella sezione download, sotto articoli interessanti, raccolta, e lo trovate. Allora, sentite questi numeri. Ogni anno si perdono in Italia, attenzione, 20 milioni 200 90.767 tonnellate di cibo, quindi oltre 20 milioni di tonnellate. Attenti, e tale cifra equivale in soldi a 37 miliardi di euro all'anno di spreco. Ci rendiamo conto di questi numeri? Ripeto, 37 miliardi l'anno di spreco, pari al 3% del prodotto interno lordo. D'accordo? Attenzione, con tutto ciò che si butta, attenti, potrebbero sfamarsi ogni anno 44.472.914 persone, pari ai 3/4 della popolazione italiana. Ci rendiamo conto di questi numeri? Della grandezza di questi numeri? Alla luce di, attenzione, queste sono cifre che riguardano l'Italia. Sarebbe interessante che anche in altre zone, ad esempio dei paesi ricchi d'Europa, andassero a fare le stesse stime. Alla luce di questo, siamo ancora convinti che i bambini muoiono di fame perché Dio è ingiusto, brutto e cattivo? E perché come, dovrebbe fare una moltiplicazione dei pani perpetua e quindi non farli morire di fame facendo lui ciò che l'uomo potrebbe fare semplicemente non facendo niente. Non si tratta di fare nessun sacrificio e nessuna privazione. Si tratta semplicemente di utilizzare intelligentemente le risorse che si hanno. Basta. Perché le cose del Padre Eterno, a differenza delle cose che dei nostri politici, che adesso hanno la moda di sanguisugare il prossimo, inutilmente, e lasciamo perdere questo discorso, le cose del Padre Eterno sono facili facili. Basta semplicemente utilizzare bene le risorse che lui ci ha dato. Pensiamo un po'. Io ricordo, e concludo, che siamo addirittura di arrivo, una volta, ero giovane, da poco convertito, venne a trovarsi nella parrocchia che frequentavo un missionario di quelli, sapete, i missionari quando vanno in terra di missione sono sempre un po', mi verrebbe da dire una parola che non si può dire, e sono sempre un po' fumini, d'accordo? Nel senso che quando parlano con noi per le cose che hanno visto, può succedere, è un'imperfezione indubbiamente, però comprensibile, che si irritano un po' nel vedere alcune cose, perché vedono dei comportamenti assurdi, figli dell'opulenza occidentale, a fronte di situazioni di estrema miseria, che magari intercettano e che vedono tutti i giorni nei territori di missione, no? Questo un giorno se ne esce e fa: voi volete aiutare i missionari e i poveri dell'Africa, sì. Tutti quanti, sì, tutti quanti ci aspettavamo che ci chiedesse dei soldi. Se voi pensate che io vi chiederò dei soldi, meglio dei vostri soldi, non so che farmene. Proprio così, a me non serve neanche una lira. Ma sapete cosa ci serve a noi nell'Africa? Ci serve questo. Quando devi fare la doccia, cerca di non sprecare l'acqua, perché lì non c'è manco l'acqua potabile, altro che l'acqua per lavarsi. L'acqua, la risorsa dell'acqua, non è limitata e infinita e non si spreca. Ma non è che non si spreca per chicchieria, perché dopo arriva la bolletta dell'acqua che costa 2 euro di più per costruire. Non si spreca per una forma, come dire, di sana e santa povertà evangelica, praticabile da tutti, e per una forma di santo rispetto, di condivisione con chi è privo del necessario. Quando si va a mangiare, il piatto si lascia pulito, ragazzi e ragazze. E guai ai genitori che hanno ancora idea quando cominciano a dire ai ragazzini: non mi va, non mi va, non mi va più. Ecco, non ti va più. Io risparmio che stiamo addirittura ad arrivo quello che fece mio padre, che invece di ricordare un Natale con non mi va più e non mi piace. Però, cito soltanto una delle cose che la trovate sui libri di Gloria Polo, io mi ricordo le risate, e la prima volta che arrivarono i libri di Gloria Polo e che devi seguire in parrocchia, sapete, quando capitano quelle cose in parrocchia può succedere che poi qualcuno vada a fare qualche confessione fatta bene, no? Arriva una persona X semi disperata, dice: padre, vado all'inferno. Ma all'inferno è successo, che hai fatto? Dice: no, ho letto il libro di Gloria Polo. Dico: vabbè, mettiti tranquillo, che hai fatto? Dice: io ho buttato un sacco di roba. E lì c'è scritto che il padre Eterno ti chiede conto pure del chicco di riso sprecato. Dico: certo, ti vedi. Dice: quindi io sono dannato, non ti preoccupare, non lo fa più, da oggi in poi non lo fa più. Era rimasta impressionata perché Gloria Polo, che ha vissuto in anticipo il giudizio particolare, sostiene che Dio ti chiederà conto anche del chicco di riso sprecato. Anche del chicco di riso sprecato. Non soltanto perché è un oltraggio contro la grazia di Dio, ma anche perché è uno sfregio contro chi si muore di fame. D'accordo? Quindi quando vediamo qualche situazione balorda, non dobbiamo pensare di dare la colpa a Padre Eterno, che ci risponderà che lui ci ha dato tutti quanti i beni e le grazie necessarie per combattere tutte le forme tipi di male. Ma dobbiamo fare mea culpa, non sua colpa, e chiederci cosa non stiamo facendo di bene o cosa stiamo facendo di male, perché la situazione contro cui ci incaponiamo permanga, perduri o si aggravi. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione mi sembra che sia scaduto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi benedico e vi saluto di cuore, dandovi appuntamento, se lo riterrete opportuno, alla prossima settimana, dove proseguiremo ancora a affrontare ancora un po', perché non è finito, il tema della bestemmia. A tutti una santa settimana. Ave Maria.